Non tutti se ne sono resi ancora conto, ma si annunciano guai grossi per la città di Roma, per l'Italia in genere, in occasione del giubileo del 2000. E non tanto perché il prevedibile afflusso di pellegrini, se vogliamo chiamarli così, manderà puntualmente a puttane le fragili strutture urbanistiche della città eterna, rese peraltro più fragili dagli scempi che in nome della pia ricorrenza speculatori di varia osservanza religiosa si sentiranno autorizzati a compiere, e neanche per il prevedibile clamore mediatico che circonderà l'evento, con inevitabile fastidio per quanti alla scadenza non siano interessati. Queste sono in fondo delle banalità. Il vero pericolo, lo apprendiamo in questi giorni, è rappresentato dalle sette, da quel vero e proprio universo sommerso e diffuso di religioni alternative, guidate da guru, profeti, nuovi messia, che nell'anno 2000 potrebbero dare il là a qualche esaltato cosciente del fatto che nell'occasione l'Italia diventerà un palcoscenico mondiale. A fine millennio fare del giubileo un megafono internazionale per lanciare un messaggio a tutta l'umanità con un gesto eclatante potrebbero esserci in prima fila sette, psicosette, false chiese, formazioni parareligiose, movimenti messianici, satanici, ufologici, occultistici e altro ancora. Oh, la preoccupazione, si badi, non viene dal Vaticano, è il nostro Ministero degli Interni, che con lodevole anticipo ha preparato e diffuso un ampio studio sul problema, di cui tutti i giornali hanno dato notizia con ampio risalto giovedì scorso, la citazione precedente veniva dal Corriere della Sera. E tutti abbiamo avuto occasione di apprendere che la Direzione Centrale di Polizia, che Dio la protegga, ha monitorato con uno sforzo analitico senza precedenti questa realtà sotterranea, concludendo che in Italia vanno prese in considerazione ben 137 gruppi, per un totale di 83.100 aderenti, 76 movimenti religiosi veri e propri, di cui 31 di matrice cristiana, 18 orientali importati, c'è scritto così, 15 interessati allo sviluppo potenziale dei loro membri e 7 di ispirazione orientalistica ma di origine nazionale, a cui vanno aggiunti 61 movimenti magici, 28 tra neopagani e New Age, 18 gruppi esoterici ed occultistici, 7 satanico-luciferine, 4 organizzazioni spiritiste e 2 gruppi dediti a non meglio precisati culti ufologici, anche se non si dice se le rilevazioni relative a questi ultimi siano anteriori o successive alla notizia del suicidio dell'agente Mulder. E se pensate che 137 gruppi per un totale di 83.100 aderenti in fondo siano poca cosa in un paese di 56 milioni di abitanti, non avete tenuto conto della straordinaria capacità che i loro leader hanno in tema di destrutturazione mentale e di indebito arricchimento ai danni degli affiliati. Sui pericoli relativi concordano tutti gli esperti intervistati dai vari giornali. Il cardinale Tonini sul Corriere della Sera ci esorta a temere queste entità che giocano sull'irrazionalità, sulla negazione della ragione. E l'antropologa Cecilia Gattotronchi sul Giorno ci spiega che la diffusione di queste pericolose tendenze è rafforzata dalla generale crisi della postmodernità e dall'esaltazione del pensiero debole. Di fronte alle privazioni del significato, ci spiega costei, le sette rispondono con un pensiero ricco di promesse e propongono una nuova formulazione dell'uomo e del suo destino post mortem. Cosa abbia a che fare tutto ciò col pericolo di un gesto clamoroso sul modello Settembre Nero non è chiaro. In che pericolo del genere in fondo rientri in limiti fisiologici che rappresenti un'incognita che in ricorrenza di tale rilievo è presente sempre e nient'altro, lo ammette alla fine persino il gruppo di studio del Viminale che ha promosso l'indagine. Cosa che certamente ci conforta, anche se ci lascia con qualche dubbio su perché, stando così le cose, il Viminale ha deciso di presentare al Parlamento e di rendere nota alla stampa quell'indagine, che senza nessun vero motivo di tutela dell'ordine pubblico inquadra 83.100 cittadini nella categoria dei possibili eversori, solo in base alle loro opinioni religiose alla faccia dell'articolo 3 della Costituzione. Perché i casi sono due. O un gruppo religioso ha in programma delle azioni eversive, rapimento e conversione a forza di adepti di altre religioni, soppressione di governanti ostili, eliminazione fisica di dissidenti interni, diffusione di pratiche sessuali coattive, innaturali o dannose o chissà che altro, e allora la Direzione Generale di Polizia farà bene a darsi da fare, o di programmi eversivi non ne ha e si limita a coltivare i suoi interessi terreni e ultraterreni. Nel qual caso, l'unica cosa che la polizia può fare è impedire che gli altri gli diano fastidio. Destrutturare e ristrutturare secondo la propria logica la mentalità dei fedeli, propagandare atteggiamenti e credenze irrazionali, opporre alla debolezza ideologica dei tempi la forza delle proprie promesse in tema di natura e di post-mortem, sono attività tipiche di tutte le organizzazioni religiose, compresa la Chiesa Cattolica, che è un'organizzazione dispotica se mai ce n'è stata una, che in tutta la sua lunga storia si è macchiata di tutti i crimini che abbiamo citato prima e che dovrebbe essere l'ultima a cercare pagliuzze negli occhi delle piccole chiese che cercano di fargli concorrenza. Quanto al pericolo, cui pure si allude con preoccupazione, che qualcuno sia indotto a rinunciare a una certa porzione dei propri beni in nome della salvezza dell'anima, non dovrebbe scandalizzare troppo un paese in cui la Chiesa ha eletto a proprio santo patrono Francesco d'Assisi. È vero che il ministro, che il rapporto non parla di chiese, parla solo di sette, di false chiese. Ma è altrettanto vero che la distinzione non si regge su altri criteri che la volontà di stabilirla. Una chiesa è una parola d'origine greca, vuol dire semplicemente riunione, e qualsiasi gruppo di persone, diciamo da tre in su se vogliamo salvare il principio giustinianeo del duo non faccio un collegium, qualsiasi gruppo di persone che si riuniscono per motivi religiosi ha il diritto di farsi chiamare chiesa. E siccome sarà gente che segue qualcosa, qualche ideale, qualche leader, sarà anche una setta, perché tutte le chiese sono sette, compresa quella cattolica. Naturalmente in Italia, dove la libertà religiosa non c'è da sempre e dove si dà per scontato, specie al Ministero degli Interni, che di chiese vere ce ne sia una e le altre restino confinate nella categoria dei culti ammessi, problemi di definizione del genere non se ne pongono. E nell'avvicinarsi del Giubileo, che tutto lascia prevedere destinato a caratterizzarsi come un evento di mega sopraffazione religiosa, che imporrà a tutti i cittadini disagi e fastidi notevoli in nome della celebrazione di riti collettivi di parte, sulla cui irrazionalità e sulla cui natura consolatoria in assenza di pensiero alternativo non mi sembra sia possibile dubitare, invece di studiare delle tecniche atte a impedire che noi minoranze veniamo prevaricate, mettono le mani avanti in nome della sicurezza di loro prevaricatori. Quella di proteggere i forti a spese dei deboli è un'antica tradizione delle forze di polizia, specie in Italia, ma non solo. Ma che le autorità relative annuncino pubblicamente di volercisi attenere con 2 anni d'anticipo, finora non era mai accaduto.